Non so se tu sia un grande incubo, il dono più bello dei figli di ipno. Non so se a scrivere la tua visione forbeti o fantasma oppure Morfeo, o se è dovuta al volo di un'ape attorno ad un rosso, rosso melograno. Eterei e langhi riprendono forma, due occhi smeraldo, un viso di donna, e sento nel petto, benché sia un sogno, il cuore che batte, sussulta, poi scoppia. Perché sei musa dei sogni miei, ed io non riesco più a fare a meno di te, della tua immagine vacua che sembra reale ma non lo è. Mentre ti abbraccio, contento sorrido, ma so che al risveglio puoi seguire il pianto incancellabile, marchiato a fuoco, impresso nella mia mente il tuo volto. Cronos meschino, non cura niente, rende soltanto il dolore più forte. E sarei voluto nascer demiurgo, poter tramutare in realtà il sogno, continuo a baciarti. Ho il cuore distrutto, eppure lui batte, sussulta, poi scoppia. Perché sei musa dei sogni miei, ed io non riesco più a fare a meno di te, della tua immagine vacua che sembra reale ma non lo è. Perché sei musa dei sogni miei, ed io non riesco più a fare a meno di te, della tua immagine vacua che sembra reale ma non